Vabbè, adesso ti sei svegliato. Era stamattina io vicino a casa tua. E guardati, stamattina verso le 11 e mezzo, mezzogiorno. No, mi sono bevuto un bicchiere di valacchina, poi sono salito a casa, perché ho perso un sacco di tempo per quel cazzo di documenti. Cazzo, sei un casino per quella cavolo di carta d'identità. Devi andare lì, prendere l'appuntamento, pagare 27 euro e 60 centesimi, aspettare poi che te la portano a casa, hai capito? Al Ministero dell'Interno. Un casino, è veramente un casino. Poi sono andato lì per prendere la documentazione del foglio ISA di Almonte, dato che sono dovuto andarci alla... giù. Come diavolo si chiama? Giù al monte sono dovuto andare perché qui non c'era nulla. Al comune, tutto bloccato. Capito? Mario è morto. Cazzo, mi sa che è defunto lui e fratello è vivo. Non ti preoccupare. Uno. C'è nessuno. Ciu. Avanti. Bronzante, che so io non li vedo. ma lui lo attira, e raggi li attira, se tu guardi da lì, vedi il raggio solare proprio dal balcone suo. Ah, solo a casa sua? Sì, fa la nuvoletta di Fantucci, ce l'hai presente. Così è di lì. Tutto suo è adesso, così dici. No, adesso sto facendo le frittelle. Volare i giorni, le frittelle, ma non va a bocca. oggi non ho sentito, proprio niente. Banda MFM, micro, Luca. Attento, Gufo. Luca Gufo. Ebbene, Luca Montanaro. Avvero. E lui. Ebbene, lui. Ehi. Sto preparando la crema per le frittelle. Buona, buona. E quando arriva quel corso? Muoie, se me lo chiedi a metà del prossimo mese ti saprò dire qualcosa. Chica, ma da là l'hai ordinato, da Chihuahua. Sì, grazie. Basta spendere qualcosina di più e ce l'avresti. ho avuto già a casa, ma... Vabbè, no, era per sapere, a vedere, non so neanche dopo aver ordinato, vabbè, tutti... Le bruscelle sei fatte, perché le bruscelle si fanno? Quando uno ne ha voglia le fa, tanto siamo in periodo di... tarrasciare. Via, poi ti mando un messaggio, vocale. Via. Aspetta, te lo mando, è Luca Montanaro dove? Montalbano, boh, non lo so. Luca si è spaventato, non entra più. Non entra più, e perché? Perché l'hanno fatto spaventare. È tutto. E tutto cagato su, ma dove è? Quello è scemo, Luca Montanaro, ci sei, Luca! Eia! Adesso ti mando il messaggio. E? Lui te l'ho mandato, ascolta quel messaggio. Luca Montanaro, le frittelle ti stai mangiando, bello bene. E beh, Luca Flipper, gufo. Chi è? Chi è? Paris. E tanto, e a tempo è. E allora, chi ci dice qui? Si l'ha arrivato tra i trovauri, ha detto, boh, basta. Sì, non credo, no. No, che sarà affaccendato, va. Chi si è pigliato ci riprende a tutti, ognuno che entra lo frega. Oh, Ethan. Ci sarà bene a pagare così poco, allora. E allora, la carità, bubu, non è fatto le cagge nell'ana. È un capriato. Con il bubu, non lo so. Ah, così. Passavano prima. È stato tranquillo come a te. Puttina, l'inganna di Priazzi. Cosa vuoi che ti dica? L'importante è che ha già appetito da voi. E infatti, si ha mangiato 12 baci stamani. Ah, ha rubato. Ma chi era arrabbiato? E allora, roba di palle nervosie, chi ci rimane tutto il bancone della pasticceria? Ma con... è contento di si mangiare basti d'occhi, dai. Ha fatto bene, se l'ha mangiato, ha fatto bene. E io, adesso avanti il risultato, mi sono guidato un quarto. Adesso lo spendo, va? Non la giocata, mi sento male, boh. Mi è tutto strano. Ma zio mio, sono entrato così a chiamare a Tubaggi, ma non la giocata, boh, sarai sul tempo, pure io, boh. Sono goduto a dolore senza valuta, roba la macchina. Ah, deve essere questo tempo, ma ha visto se è annuato, è pure un freddo. No, è solo quel caso, io. Ah, se mi devi andare a una messa, devi andare. Non mi so che è andato, ma chi... non mi sento bene, capito? Se no, magabba. Se no, sei già uscito, ma non so che è uscito, ma chi... non mi sento bene, capito? È la pressione giusta, via. Ah? La pressione è buona, ce l'hai giusta e ce l'hai misurata. No, è una pressione, mi sento strano, non c'è dolore, io burso. Guarda, ma tutta la casa sinistra, qui non posso manco camminare. È un po' di temperatura, faccio, quasi a 38. Allora, bello mio, ti ha appiccicato l'influenza, occhio. Mi si vuole tirare in pensione, mi. Ok, c'è l'influenza, può darsi pure, speriamo di no. A di te c'è un piccino che te la dice le cose, avanti! Mi si vuole ritirare in pensione, mi. Mister. So che io gatto. Tu pure li vedi per te. Già siete pomposi tutti quanti, eh. Allora, ti fate prigioni, sotti. Chi è Tino? Oh, ciao T, buonasera. Luca, bisogna fare le prigioni T. Io non voglio mangiarle, eh. Ma io l'ho mangiato anche a mezzogiorno. L'ho mangiato, sicché le hanno fatte un poco. Ma un pezzettino, me l'ho appena assaggiato. Non la giocata, manco di mangiare, può immaginare. Tutta dolore e l'avrebbe guardato in tutto. Tacchina, ma è tutto sassare così, Allora preso anche la gola adesso, Ciao, ti me la biglio, Sì, prima ecco qua, me la biglio, speriamo bene, che non mi riuscì all'influenza, perché... se si dipende tanto da chi si angoscia, a chi mi fate male tutto il lumbo, tutta l'anca. Dopo siamo accoccati in sabbassa a sinistra. E io penso sia paese da chi. Sono buttati a dolore. I gocci fate male, i gocci, boh. Eia. Luca, dove sei ora? A Bategullo. Vabbè. In sala. Ma come sempre. Santiago 9, prova verticale. Ciao Bari, non sei uscendo. No, no, sono io, no. No, Gio Maria a fondo scala a me. A fondo scala, tu pure sei ti. Grazie. Mi giù. No, il più basso è Graziano, che l'ascolto livello, vabbè, senza segnale, di radio e basta. Sì, vabbè, grazie al compumino però. No, ma se tu sei sempre come al solito, con lui ha migliorato tantissimo. Io sono in sala, non senti la televisione, lo sai. Anzi, più di 9, quasi 9.20, sì, addirittura. Infatti non ce n'è di freddo. Va bene, che vado a guardare un attimo una cosa che mi hanno fatto due giri, mi devo assaggiare se sono uscite buone. E te, tutte quelle prigioni sono, mi Gio Marie. Avevo voglia. No, io posso domani. Domani? Meglio così. Stufo! Chi è? Chi è? Dammi così. Ehi, you. Luca! Montanaro! Non entra più, l'hanno spaventato con una telefonata. Poverino! E tu non gli hai detto niente! E cosa gli dovevo dire, Grazia? Sento, bravo, sei t'assuccia. Chi su che sei in regola e t'assuccia a chi ti fa di una telefonata. Poverino il bambino! Luca Montanaro, vieni che già ci sono io che ti difendo! Vieni che c'ho anche biscottini! No, le frittelle, non i biscottini. No, c'ho anche biscottini, siccome so che gli piacciono i biscottini! No, non ne mangia dopo, te l'hai visto. Ucci, un tettino, non ne mangia, ha rotto un quattro. Ci pare una ventosa a mare, a succiato. Tino, Tino. Luia. Quel messaggio di Giorgio, sentitela ieri. No, sono quasi in casa. Messaggio? Il messaggio che mi ha mandato Giorgio ieri. Ah, quello di me, sì. Sì, mi ha detto, appena arrivi, chiamami. E poi si devi fare anche dei lavori tu o buffa un altro già stato messo lì, non è che voglio approfittare. Beh, una volta che sei lì, no, aspetta, forse sto confondendo, forse ho sentito un altro messaggio, ma era al Continentale, sicuramente lui. Te l'ho girato a te l'ho girato a te. Allora già ho sentito. Ma vabbè, quando sei intenzionato a volare? Sì, intorno a metà mese, dai, così. Metà mese, così. Ok, adesso vedo un po' quanto starci pure. La sera me ne uscirò, fare un giretto anche. Dopo il lavoro, dai. Dove si dorme? Dove si dorme? La pecugnata troppo. La casa a tre piani. Credo che una stanzetta ce l'abbia. Anche se quando arrivo lì faccio un paio di telefonate e sarò uscirò sicuramente la sera. Meglio. Già va bene. Ciao Mari. Eia. Ehi. Sì. Non ci ho capito. Iuacai. Uia, perché c'è? Paghi tutti quanti a roccio oggi. Perché poi ieri c'era il sole, oggi comunque c'era parecchio la temperatura. Babbo, compagno l'ho visto col varato. La mattina sono uscito lì, la mattina sotto la tua suocera e basta, sono ricasato subito. Prendo, non ne ho preso, no? Strano, è proprio strano. Il frumbo mi ammazzendo a me. perché non dipenda tutto da questo lotto, guarda. Poi mi pida tutta l'anca. Oggi manco un coccato a sinistra, bossicà. Devi coccare o a pazzinaccio o a dritta. Come tanto a girarmi, si mi rompe tutta l'anca a dolore, capito? Epita. E beh. Materassa d'acqua allora bisogna mettere. Stavolta mi do, sa che piva, vedevo un po', però in basso, a carinotta gli bella la bustina, e ho fatto una, ho fatto una, ma vedevo quella giacca pirina, vedevo, boh. Infatti devo andare a una messa oggi, perché ci sono a casa, e non mi sono buttato andare a casa. Dai, andare da Ezra, capito? Eia, eia. E beh. Oh, io via. Cristiano, le fritte le fate le hai? Sì. No, ce le ho già pronte. Già Maria, sentito lei che è morto. Ugo Multinetti, c'era il funerale. O ieri ho avanti lì. Già l'ho sentito. Già lo so. Ieri era. Ero morto avanti ieri. Ieri alle 10 c'era il funerale. Già, ma l'ho sentito anche io. Ieri mattina c'era, alle 10. Ebbene, non bisogna andare, magari dalla cadulla e beh, sinceramente non l'ho saputo, sa che io il giornale non lo prendo. No, la Gisabuddu in frequenza, la Gisabuddu. Se no ce l'ho andato, sì, perché conosco tutta la famiglia io e mi conoscono, capito? Per cui sarei andato ben volentieri. Non ho saputo niente, solo che ieri sera l'ho saputo, capito? Sono ben volentieri, infatti ieri ho trovato delle amiche mie che lavoravano insieme a me e me lo stavano dicendo anche, capito? Per cui... mi dispiace, va. Ho fatto parecchi anni con loro, per cui sono stato bene, ma l'ho trattato bene. È chiaro che dispiace ugualmente, dai. Purtroppo è così. Così è. Riprendi lui, buoni giorni frigioni. Domani me ne posso. Domani. Vero. Ehi, domani cosa hai? Domani è mercoledì. Domani è Santa Brigiola. Un attimo, Rufo, rientro subito. C'è anche Paoletta. Non lo so. Rientro subito. Ehi, io. Tino? Sto mangiando, dai, sto mangiando. No, non mangiare, che fanno ingrassare. Non so più. No, va, l'ho assaggiato, già sono buono. Mangio dopo che devo fare due fettine di pancetta e qualche bistecchina, boh, adesso vediamo. E qualche chilo di salsiccia. È vero. No, quella no. È un peccato quella. Quella si mangia dura. Che dura. E che duri, certo. E io. Oh Luca, ma non gli sarà cibolata la saponetta a Luca Montanaro? Li staranno mettendo i punti allora. Sarà in convalescenza. Poverino. Luca Montanaro, a ci sei, piangendoci. Oh, va pure, che devo rubare dalla radio. Già, sentiamo dopo. Ehi, ti va bene, d'accordo. Mangia poco, Tino. Ehi, beh, sarà Pignelli Luca Montanaro. Piangendo, addirittura. Vai a coccolarlo. Luca, non farti intimidire. Luca! Ah, ti fai sentire bello bene. È proprio impaurito, tutto tremolente, sì. E allora? E che ci vuoi fa? Che ci vuoi fa? C'è quello più forte, quello meno forte. Giammario, si è entrato, sì. A chi deve pigliare uovo Martina per rifuzzarlo? E il 27 è andato, ci siete. Oh già! Il 27 è andato, ci siete. No, perché c'avevo il computer, c'è il computer qua su. E non veniva nessuno, immagino il vostro computer, stavo guardando così. Hai guardato quella cosa che ti ho mandato? Ehi, il prezzo non me lo ricordo però. E se avesse me lo scritto, fammi vedere. Riesci a vedere. Riesci a vedere. Allora, no, il prezzo non ne ho messo, no, non me lo ricordo. Senti, guardi. Ehi, guarda, vedere. Allo, allo, allo. Avanti, allo, allo, allo. Allo, allo, buonasera, buonasera, allo, allo. Buonasera, ben sentito. E beh, Piselli, Fabio, venuta. Sì, base, grazie, buonasera. Buonasera anche da chi era l'altro, non ho riconosciuto. Penso, no, non voglio dire cavolate. Ehi, Piselli, già vengono, piano piano, alla fretta, non avere fretta. E Fabio, piano piano, tutto piano piano bisogna fare, grazie. Ehi, già mi ho mangiato oggi Piselli e Fabio, non c'è problema per quello. Già li ho levati dal pozzetto. Sì, ma non sono buoni come quelli freschi, capito? Quelli sono buoni lo stesso, ma raccolti e mangiati è un'altra cosa. Ehi! Generi buoni, generi bisello, bello gattoso, eppure le favette belle tenere e tenere, aglio, prezzemolo, peperoncino, oh yeah! Dimmi di goro. Niente primo oggi, ho fatto carciofo e patate, favette e piselli con uova. Buono, tutta roba buona, grazie. Roba genuina, casereccia. E le feste fine fine di prosciutto, condito, tutto bello condito, ci ho messo in mezzo ai piselli e alle uova. Buona riduina, a striscioline. Ok, oh, strisciava tutto, capito. E però mi rimuni un po' qua, torre squallido mi. Oh, chi c'è trimurendo già chi deve pigliare l'aereo, papà sì. No, è già passato, è già arrivato. È già arrivato, è passato a mezzodì e mezzo. Oh, sarà tutto un tremolone avanti, da lo saranno ammantinenti. Ma se ne è fatto l'aereo, non se ne è fatto l'aereo, è diventato un ghiacciolo. Minimo! Animali, mini buddy, ma stavamo parlando tramite il video, no? Su WhatsApp. Con il video era tutta cappucciata, dice unia fredda, unia di e più venni, unia santa di, ed è lì mi dove c'è la figlia di lui, di Tore. Infatti la gita ricca me la vosciacara di Niura e la vosciacara d'Eva, e ha detto chissà che è Vavona, arricca mira, chissà che mi arricchia che tanto da Triciuroni a Rosa e a Sifarzara. Ma ha detto che non si ammetta nemmeno più come ti ha fatto Rusori, se è rotondo, se è quadrato, sempre Eva, è tutto annuato. Infatti Tore mi ha detto le mani, l'ha già avuto e attendeva a ripetere io, dove andare a farsi l'assicurazione. Siamo venuti ad entrare, ma ha detto, dice che la figliola l'ha detto arriva di un cappotto, penso pesante, un cappuccio, i guanti e la sciarpa, fino a che è freddo. Un bel di freddo, mia nipote, ieri non me l'ha detto, era appena uscita a travagliare in casa sua, chi sa, casaretta, va, enorme, dice che era un freddo di bisciassi in tanto, ma freddo mio. Era appena ricasata dal lavoro. E domani Tore andrà a passeggio a Londra e si va a una passeggiata. Hai cercato attento, non ti sei venuti a buttare il buccafoglio e in più lungo SO. Ehi, il Piburro è come sta a Roma, amico. Tale identico a chi pure chi via sono ben attrezzati. Ai tranci. Ma io mi sono più vestito, per esempio ci pensavo le più chimiche a Roma, di piccoli borseggiatori. Aspetta, Roma è imbattibile, esci di buru, la che è abbassata, torna a striscia la notizia, borsellini indiutati con mezzi di documenti, dentro, a dare da rimuretti. Dentro i tombini, in mezzo a lei, ma venire a Ebbocco porta a Puglia. Senza l'Irina si vediano le carte di credito, gittati, patenti, carte d'identità, porta a Puglia, vecchi, tutti invitati, borse, che cos'è che non guida? La rare divisò a Roma, uno originale non ci deve pure in mezzo all'anchi, a se sicuro. Anche chi mi è sicuro, no? Anche chi mi è sicuro. Io ma a Roma sono un borseggiatore, fatelo un conto. Non so cosa hai conosciuto a Torre Laido, conosciuto l'hai? L'hai. Andavo a messo per un pari a Roma. No, di marito, io andavo a comprare la bicicletta a mia figlia, aveva la minore. Andiamo a Porta Portese a pigliare la bicicletta. Ci metto via un zio, un Tore, che dà, Giannino. E dico, io andiamo, vi porto io. E ci mando un paragoletto. E Tore dice, oggi prendiamo la bicicletta. E dice, vedi, ma mi ha dato le bancarelle e ha avuto la bicicletta. La piglia, l'ha pagata. Io dopo il mio cofano della macchina, se no io dico sì, non avevo le mani liberi. Se un cofano, ma tanto che cammino a piedi, se non facevo il cofano. Allora si aggiungo poi una morsa. Si manda la bancarella, viene via una, dice no, questa non te la do, dice, te la precurò fra un po'. Se aspetti 10 minuti te la precurò, ha mandato un tipo, e arrivi da morsa e tra cappola. L'ha pagata, andava a mettere la morsa della macchina e non veniva più la bicicletta, aveva una bicicletta un cofano e ha portato la bicicletta. E i chibi è pieno, si tenta, e là per il burro si non vede nulla, a chi pensa nei Roma, chi ci si la portare un goffalo, e allora di là per i Roma stessi, per carità. E Tore quello lì è mio cugino, di secondo grado. Oh, ho capito, oh, con Tore ci conoscevamo una vita, da quando avevo fatto lo tranviere, il casino che vicino a casa, quando si è arrivato il casino a fianco a casa, i nobili. Poi si è andato a venire fatto la casa cooperativa. Ehi, ma io mi ammetto quando sono occupato di un militare, mamma mi aveva abbigliato rimontante che di bianchi. Abbiamo visto la giornata che ci buco in vela, no? E a parte tanto era gli accuciti, solo la giornata abbiamo buco. E lì là mi ripuria in mezzo all'anchi, la mondanta, per la giornata. A priori grossi mi ripuria i chibi, poi c'è la medaglia 10.000 lire, picciolini così. Parole grossi mi ripuria la mondanta, pure quando trombiglia. Chi è che dei compagni gli devo fare la mano bassa? E allora, quattro secondanti mi aveva cucito le giornate al lampo e mi dice, se li buoni chi mi ritina, che chi è pieno di delinquenti e deve essere pure a me, tu buoni delinquenti, chi mi ripugna io? No, ma sono a Roma, sono fate la finta di cui tirai finta di toccato, di domanda scusa, di domanda di scusa e da fissi dopo capoglio. E catenini, bracciali, gli altri ne drancini tutti già. Lo so che c'è una parente io a Roma, una sorella della buona anima di mia madre, che vive lì a Beccali, c'hanno un centro edilizia, c'hanno, lavorano lì. E io non penso com'è andato, mi voglia sempre andare a travagliare lì, a fare autista, ma non sono mai andato. Già sono andato tante volte, già lo so com'è. Ma? Sì, andavo spesso a Roma con Tore. Spesso andavamo a trovare lo zio, perché lo zio a Sionnino e a Roma. E se io andiamo a trovare lo zio. Due volte siamo andati in macchina, se no pigliavamo l'aereo. Andava in aereo. Quando portavo la macchina era un problema, ci ha fatto posteggio sotto a casa di Vito, girare e fa, allora via se andavamo in aereo. Facciamo il biglietto andata e ritorno, non ci arriviamo mi casino lui di a Roma, dopo ritorniamo in diretta, facciamo lo vende lo sabato, domenica a casa. Anche io lo facevo così, andava via la macchina. Andati a Porta a Porta se compravamo accessori per le macchine, no? Quelle scritte, Roam, che si attaccavano ai parabrezzi, pendolini, un sacco di cose, accessori per abbellire la macchina, no? E quelle scritte adesive che si attaccavano ai vetri, John Play Special, tutti quelli li portavo io. Da Porta a Porta e poi qua me li vendia di più. Beh, io da qui avevo una pesceria, tutto. Una lì arrivò un camion, un camion enorme. A sua rivolta per l'interno ne erano chiavi fisse inglesi, ma un camion, proprio una montagna di ferro, era. Ha scelto, a 1000 lire al pezzo, era, sia manno sia minori. E infatti il contore aveva fatto lo carico delle chiavi, Montessa alla fine via, mi avevano i tanti che non si viene niente. I ragazzi di tutto, la maggior parte è tutta roba indrancita, per lo più è tutta roba rubata, in appartamenti, in negozi, di roba cuparata non hanno, c'è tutta roba rubata, e l'ha fatto vedere anche da poco se c'è la notizia, non l'hai visto. Avanti buoni burù, i marocchini a vendi, ma te c'è roba indrancita. Poi lì trovi di tutto. Sì, infatti, è quello che fa vedere, qui sono i marocchini che vendono. Questa roba è grancita, non è roba comparata, la roba è grancita. Per lo dire di burù è furata, no? Noi non abbiamo cognatito, no? Se l'ho rubato qui, l'ho rubato là. E così se prende il burro Rugaccio, se la vita c'è di tutti, ha fatto vedere il pendente Rugaccio, così se l'euro Swimba che l'ha furata, e lei ha pendente i chibi. Ehi, già la gente, questo è dell'euro Swimba. tutti i chibi furano i pendenti i chibi, a quanti nai, non hai compreso. Tutta roba andrancita, già l'ho visto già, per carità. Dicevi, voi andate e vai al pizza. Allora in macchina non ti conviene burilla, ti conviene busati, avviati, bucati da casa e torna. Non agati tre, ragazzi. Li rodi, ti ne tira le burro, hai visto? Le rodi. Tu devi stavate la fortuna. Come può fare una di andiamo a Roma? Con la Land Rover e vai a fatto piazzare la Land Rover, i primi che hai usciti non sei sparavuti di ferro di fare antinibbia e siamo arrivati a Roma dormito la notte, il manzano ha detto io andiamo a pigliare il caffè e poi andiamo a pigliare i bici e ricambiare la via che stava facendo ogni poco mi dico una macchina senza fare se i fari gli hanno rubato quella macchina cieca e via. Per tutti i modi, entriamo a rubare, facciamo colazione. Quando siamo entrati a prendere colazione, questione di 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Abbiamo furato, veniva dimontato, rifare le pende nebbia, veniva dimontato e ci siamo portati. E adesso qui c'è tutti i riti, avanti tu, che ci siamo potuti rifare a te puro. Ehi, non fate a parcheggiare, andare in macchina non fate. E con un portafoglio in busciacca l'hanno fatto nemmeno. Anche pure se magari vi la in busciacca e lì di notte la macchina della tabacca ti va i documenti, ti si rilampano. È un casino. E chi mi deve andare? curi di là, ammacciati per, e poi senza documento se sta a portare fuori l'inizio. A paese che ci vittà di cuffarà, si può curi di là, prima di ripripare. O se no ti fa un giro, anche un cuzzolo, ti rivolgi, anche se ricuffareci. E se no ti fa della vita, pulizia. È pieno, ma non l'hai visto, ne hanno arrestato 4 o 5. Sul fatto di quelle dei ragazzini zingari. E si la raccomando. Sì, grazie. Ah? No, pensavo che era mancata la batteria. No, io a Roma mi è capitato, io andavo a pigliare i pezzi di ricambio che ero via da un negozio, no? Andavo io in fonderia a pigliarli, poi mi ripidiano. E andavo a dormire, vicino alla stazione di Terni, lì era l'hotel L'Acquario. E ormai mi conoscevano, mi rosaggio al riviso, se preparate la roba a rosaggio. Una lì era andando alla cosa d'acquario e chi ne è che mi bisticchiare? Hai detto ma che non so cosa vuole, sono buoni. Io mi pone il coso, mi cazzo che c'era un carrone. Io gli direi la via dentro la volta, quello che te la segna, se ne butto dentro la volta. Quello che dice no. Dice, puoi toccare, adesso vai, avviati prima di qua fare dei piedi. E io sono andato all'albergo, arrivo all'albergo e mi messo a poeto io il rinnovare dell'albergo. Cosa ti dici dell'albergo? Cucù. Chi è? Io, ciao. Ciao, avanti. Come va? Tutto a posto, sì. Ehi, ciao Antonio. Ehi, mi insieme a cosa sto parlando? C'era anche Luca. Io Maria non so che la fila ha fatto, boh. Insieme a Giuseppe solo, vai Giuseppe. Attori. Dimmi tutto. Oh, deve essere Giuseppe non mi sente, aspetta, Giuseppe. Ma chi io? Ia, ciao Antonello, buonasera, a mi ascolti? Ciao Bacchi, buonasera, saluto di ben sentito. Ti volevo dire, oh... no, ma la fa in cuffia. A me stai dicendo altro. Grazie, ti volevo dire che quello lì, che stavi parlando ieri sera, a baracchino, si chiama Roberto Quadrato. Capito, Roberto, il figlio di quello che tu hai lavorato a casa sua, cioè nell'officina sua. Ah, Roberto Quadrato, già lo conosco, già. Ah, il figlio, oh, mi lascia figlio. A Udurai anche. No, me lo sono ricordato stamattina, perché ieri sera ce l'avevo in mente, però c'avevo la sua punta della lingua, non voleva entrare. Poi stamattina me ne sono ricordato. Ah, tanto quello è detto Roberto Quadrato. E quindi, siccome c'è quel cognome di lui, quindi è figlio del tuo principale in pratica, hai capito? È il figlio del signor Giovannino, Giovannino si chiama Roma. Non lo so, penso di sì comunque. Senta cosa, al baracchino glielo chiedi, perché lui entra 27. In PMR non c'è mai entrato, anche se c'ha il PMR portatile non è mai entrato. Ehi, quando entra già glielo ricordo. Se al limite lo senti tu, ricordaglielo. Ciao Mario. Guarda che se ricordo quello. Per come hai detto tu. Oh. Mi che aveva la pensione, deve pagare. Cosa? Ho detto, se ricordo quello che ha fatto tuo padre, che ti faceva portare la roba così, e ti pagava 6.000 lire al mese, neanche la settimana. Minimo ti tocca la pensione, ho detto. Ah, 6.000 franchi a rumeggi mi dà zia, e buricati in pezzi un papillo. E cazzo di me, si cheggia. Va, Appunto, per quello. Quello che sto temendo, se per caso avevo sentito una baracchina, dice, viaggiare a babbo di chiedere la pensione. Ma gli arretrati di chiedere, a 6.000 lire al mese. Cosa fai a quegli anni lì? Non fai nulla. Ma perché dovevi imparare il mestiere? Praticamente gli anni grafici. Hai compreso? Però ma chi ti dico tu Antonello? Prima che tu ti bagavani, e se ti bagavani, quando andavi a lavorare là, all'età di 15-16 anni, nelle officine se ti pagavano. Sì, grazie, io sono andato a lavorare, avevo 12 anni, ho finito la quinta elementare. E andavo nella cartiera, all'Ugolinto, c'era la cartiera, a scegliere la carta colorata e la carta bianca. E mi davano 100 lire a settimana, 100 lire a settimana, ma te lo conto quant'era? Che cazzo 100 lire a settimana? Io non la buona. Un gelato ci usciva a 100 lire a settimana. Sì, adesso c'è un gelato, ma prima 100 lire, 100 lire erano 100 lire, no grazie, dimmi il valore com'era prima. Vabbè, con 6.000 lire al mese qualcosa babbo se la comparava, amico, da di grido. Non era come adesso, no? Ma metto con 5 franchi, un tabacchino, mi dà via 5 nazionali, la buon'anima del signor Renzo. Con 5 lire mi dava 5 sigarette. Sì, natural, senza affitto, sembravano... Catrame sembravano, ma non sono sigarette da adesso, no? Quelli pigliavi fuoco, pigliavi. No, babbo fumava quelle, pure io laggiù fumati da minori, dici. Le nazionali, le alfa, senza filtro. E ce ne fossero state, di birubacchi, allora. Allora era tutto buono, alfa, nazionale, infatti non potevi permettere di comprarti le Marlboro oppure le MS, no, saranno. C'era però un tipo di sigarette, quelle col pacchetto azzurro, che costavano in poco, un momento che macchairani. E quelle costavano poco, le più scadenti che c'erano erano. Era un pacchetto rigido, di cartone. Tempi valori, no? Ma andavo da signor Renzo con 2 franchi ti dati alla busciacca dei caramelli. Guarda, l'unica cosa è, secondo me, le sigarette che ci sono adesso erano quelle di prima, non ti preoccupare, erano molto, totalmente diverse, ma così stava la questione del tabacco, ho capito. Era tutto quanto roba così. Si fumava anche la cacca, si fumava una volta. Io mi compravo poi, quando avevo sulle 18 anni, 19 anni, le Astor, le sigarette Astor, non so nemmeno se viso ancora. Le Gauloises, quelle francesi, bianche, che erano forti, il pacchetto azzurro. Le Marlboro, Camel, allora fumavo, e Diana, e già me le fumavo, sì, anche le Presidenti, quelle lunghe. Qui da voler fumare, grazie a quell'età lì. E quelle però costavano, però quando ho cambiato mestiere, che lavorava alla pompa di benzina, lì stavo bene. E allora lì mi potevo permettere quelle sigarette a comprarmele, capito? Infatti lì, quando lì mi ho preso le moto, 2 moto mi hanno occupato. Stavo bene in quel posto di lavoro, o benzinaio, a pompa di benzina. E l'ho pagato bene, a voglia. E poi mi faccio a burumbe di manci. Vai, Bacchi! Le mance prima, ma va, mance non mi faccio più, no, grazie. Allora ti puoi fare una mancia d'uso, ma mance di là non le date, no. Capite, Antonio? Prima c'erano le mance, quando li pulivi il vetro, o li mettevi la benzina, ti lasciava sempre qualche mancia. Adesso nulla, vado, anzi, devi dare tu. Mance, chi li conosce più le mance ormai? Per carità, ormai sono molto le mance. Una volta lasciavano quando c'era la lira, adesso non c'è più niente. Anzi, adesso lasciamo un centesimo al limite, se è possibile, se no vogliono fare brutte figure. Perché non te ne vogliono dare la gente, se no per il mio carattere li ho sempre dati. A me ultimamente mi hanno piazzato la parete del soggiorno, gli ho dato un pensiero di mancia, laggiù sta a pigliarsi la birra. Secondo chi trovi già te ne dà ancora, ma pochi so, ma già c'è qualcuno che li dà ancora. Già lo so, ha voglia. Aspetta che sto facendo il sugo, che lo conto 2 minuti. Ehi, affare, papi. Ehi, adesso mancia, grazie, non ce ne sono più, è raro che so che una mancia. Capito? Avano, dunza. Niente mancia, di meno te lo puoi dare, se tu gli dici cosa devo dare, e mi dia 5 euro, io no, 4 euro ho, e la mancia la dai a te, faccio darle a te da te. Io finché ho lavorato, per lo più, tutti i clienti che li ho trattati bene, a piazzarli da fuggibile, oppure portoncini, o finestre, o mobili, sia l'orella. Per lo più la maggior parte i film me li davano sempre di mancia. Mi piace, oh grazie, si prende da qui il caffè, 10 euro, c'era già lì, 20 euro anche mi hanno dato. Addirittura la signora in paese mi ha dato 50 euro, me l'ha messa ancora, bella da qui. Vedo giù lì travagliando, gli sto piazzando le finestre. È una veranda grande grande, tutta vetrata. Quella mi ha dato 50 euro, auguri era. Sì, pochi ce ne sono, grazie, che con la mano larga. Pochi. Tu devi pensare, quando sei fuori negozio, era ancora in dire. E la porta fuori, dice, me la porta la stufa, me la consegna lì. Ma no, non è detto, noi la veniamo qui sul posto, poi il trasporto ci sarebbe. E non si preoccupi, già dentro la mancia. Li portavi la stufa, fate così, appagate la stufa, ma con l'unto della zia. Tutte fesserie. Mancia non finirà mai. Ma per lo più, a me, il più la verità mi dà sempre data. Pure quando piazzavo una fuggibile così. Io quando mi diceva quant'è, per dire, dicevo 195 euro e mi dai cazzo così costa, perché non gli hanno detto al telefono, gli hanno detto il trasporto e il montaggio, a quello gli hanno detto al telefono, se vuole il telefono gli non la ci perde, se mi dava 200 euro il resto se lo tenga lì, mi dice. Si prende la birra o il caffè. E io grazie. Però il più, la maggior parte me ne hanno sempre dato. Ci hanno già avuto molti di fame che non mi la dia nulla, però a posto della mancia mi servono a bere, caffè. C'è gente ancora in grazie di Dio, ma per gente che nulla avvara che cosa amara. Quando un operaio ci sta tutto il giorno lavorando lì, magari ti fa il travaglio, non si tocca, le dali 5 euro di mancia va a pigliarsi un caffè, nuda, se è possibile tenere il cavalletto di 5 euro. Ah, io non so, è molte volte è capitato se stavamo facendo tipo quelli della parete del soggiorno. Ma dici, se volete mangiare con lui, io faccio due passatiste, veloci, vicino a più di tempo, più vestiti. No, esatto, già ce l'abbiamo il pranzo, prendiamo quando abbiamo terminato, come volete. Ah, io già, non so così. Tanto uno non diventa né ricco né povero, mi si è dato un piatto di mixta all'operaio, no, non so se di nulla, non è chiesto il coso. uno fa anche bella figura quando invita uno a pranzo, dice mangiate insieme a noi una tazza di vino, una tazza d'eva, due spaghetti e via. Nuzza, avanti, Antonella ancora me. Stava preparando il sugo. E chi ha visto per i vedani nuovi in piazza, quelli che stavano facendo la piazza. Prima di capolano la giuvicina entrava lì nei ghini, se la russi giù a garri, a chi era l'ultima vicina entrava lì. E la città mi mette il bacino, lo parente non lo suate, lì la piscina a mangiarsi. E gliel'ho mandato, per dire, tutti i traietti che vengono che non si è attribuito nessuno, ma cattivi grazie anche operai. Proprio asini, la gente non ne ha tutti nulla. No, oh, chi io su, è prendere o non dare, grazie, so, prendere o non dare. E dagli, per carità, se fare gli virulini, che, mi chiede chi c'era, hanno travagliato pure, poi leva, ma Eva e io, che dovete travagliarmi sotto all'Eva, un capo non avevo fatto io, a chi mi sono entrato sotto a robustico. Sì, è andato passato a leva e è uscito. E ma vedi come ti è. Le gente è riconoscente, che tu hai riconosciuto che gli operai, a chi l'operaio l'hai fatto tu puro e sei il sacrificio com'è. Ma chi sa niente, pensi che non ti travaglio, non hai saputo fare, non hai visto mai. Ma chi su è? E allora, gente ignorante, per carità. E si sono accontentati. Fanno fallire che no, che non pensate ne sono randati, che va gente pure con un salpetto. Sì, avete detto niente, va di là pure i chivi, a sapere lì. La gente che va di là e non i cavali. Chi si dice? È un bel culo, fate lì, i bocci di fame e nane più di te. Sì, vanno i casi, vanno i terreni e roba varia. E chi vi fate di morte di fame? Ehi, vanno i casi in campagna, casi a mare, 3-4 macchine, 3-4 moto, ci vanno i giusti già. Sì, ne conosco un paio, chi vi... I casi ne vengono, i casi ne... Capito? Stanno bene, è solo che... Siamo sicura mano sarà un bugno per uscire la mocca. Allora, per carità, e ci avvini. A Torello, visto il sugo attaccato ci sei. A me mi pare avendo una bionda che il sugo è. E mi sa che il sugo era color giallo con la schiuma. E minimo, minimo. Era spumeggiante. Avanti ha tirato la cannuccia, si cittura di più la cicciatura. Cicciatura? Oi! Io ho fatto cosa, la tracanneccia ho dato tutto. Eia, Gio Maria, non si cittia assai bene, si cittia strano. Oh, malato è Gio Maria. A 3-12 la prima per la via, sei la misurata. L'avrà pizzicato. Allora è passata la signora influenza, si è detta io con lui. Beh, sicuramente anche a dire che era di Sadurori. Sicuramente l'ha pizzicato, o mette il cinto da te, la rimane, non la rimane. Un oggi mi pare. E l'ha pizzicato. E ha fatto un vaccino puro. A me mi pare che l'influenza non patroneggia a nessuno, né vaccino né senza vaccino. Ma vaccino non ha fatto. Mi pare che abbia fatto il vaccino con Graziano. Ma Gio Maria Graziano. Mi pare che abbia fatto il vaccino. E cazzo, ne va vedendo la famosa, allora al momento, se sì o no. Però di vaccino non va vedato, non avremmo. No, non ne ha fatto. A chi ha detto che tanto quando si faceva un vaccino e della moglie lì, tu pizzicava a Roma stessi. E allora non ne ha fatto più, mi pare che 2 o 3 anni non ne fanno più. Ah, e allora? Allora se avrà fisticato le topuro. E mi avviso forme leggere e forme pesanti. Capito? E poi vede questa malattia, chissà, del ricordo, dei buchi. Ma chissà, bene si mangiare di buchi, fino a controllata. Se è controllata già si ha buchi. Ma voi la mangiare di buchi, basta cucinare la vece, secondo me, e ammazzare i germi, o no? E infatti, ma non dica noi da raggarri, è un virus che fa nei buchi e l'hanno trasmesso all'uomo. Oggi ho capito a Rai 3, in Ocavizzino, nel paese in Ocavizzino su stesso, è ricoverato dai pilari. Bastava a chiamarli di veterinaria a tenerli sotto controllo. E certo con questa malattia per poco di giugarsi, perché mi pare che si muore con questa malattia, la peste suina. La peste suina si muore, si muore, se ne è pigliata in tempo uno muore, capito? Perché ti si dovrebbe bassa, dolore, che d'altro, no. Tu quasi ammazzato tanti che buchi malati, basta farli tutti pure, buonanotte. E allora, ma dici l'altra volta era vedendo un programma che li hanno contagiati questi cinghiali che ci sono liberi, che si stanno avvicinando anche alle città, pazzesca magna. Chi sono chi sono contagiati di buchi normali, dai? Sì, a Roma, a Roma ci sono i buchi. A Cagliari ci sono i buchi, e non è solo Ibino, è tutto di bassi. Se andiamo alla periferia della Lira è tutto buchi. Già lo so, ma non viene detto, l'anno scorso mi sembra, che all'apparatura abbia imposto per un periodo andare a ammazzare i buchi. Non sente più nulla al televisore. Ma è poche mi sono troppo. Se andava a cosa, Porto Conte, o Porticciolo, oppure a cosa, a casa di Tascia, e sapinetta con intera, chissà. E provato un momento. È pieno, chi vede che un ristorante dei frati, in mezzo ai sapinetta. Io mi sono andato facevo quando io cavo il figliolo a calcio, di fronte si è andato a casa a mangiare di vicini la domenica. La sera mi veniva la marea di buchi, venivano trumati, venivano, a che mangiare. E lì a Portoferro, e lì è pieno, quando mi facevano campeggio, noi cucati, e fuori di ritenere il vaso di buchi. Rumazzano manco un sacco della mondezza che stava che si rubuccavano in tre sacco e venivano i rifiuti, no, di mangiare, tutto si mangiavano. Io mi pure a Portoferria venivo uno e due e soga, e un mare veniva di buchi, è pieno di buchi, e non ammazzano, e non si può ammazzare per pari chivi. Ehi, ma mentre quando ero in comune travagliando che andassi a ciambare un gaccione con un 300 sul gaccione in mano, staccavo il vuoto e attaccavo il pieno, che era sempre pieno. Da poi era messa tutta in carriera, che erano pieni a macchine e poi tutto in giro, era tutto mondezza, si subiva a sacco un camion sopra, ma fa pure la ganza. Un capro che mi riparavo, di un asarrone canta in me, e la era pieno di cinghiali, ma te, tutti furruggeri, più di uno li cazzicavo. Però non me ne scendevo io, a chi c'è voi? Io ti avevo rimagnato, e i cinghiali che mi avevo rimagnato se mi fai da terra. E io mi ho fatto fuori a finire un bel. Manni minori, di tutte le misure in giuvito. Da militare di Corvè, quando mi dà via nel servizio mense, con Fiat 682. Ma zia Luigi, no, i vicini invitavano i bidoni senza un caccione. Da mezzo di piazza a Montecudi, che c'era il radar e poi c'era la discarica. Come indignare l'ubriaco che pigliavo la stradetta a bassare la montagna. Tutti i bambini cinghiali e i bicicchiali. Ma sai che si cinghiali? Vedi i bicicchiali che terra. E tu con lo cambio ribassavo in alto, di gingomma erano. Con la ruota ribassavo in alto e si durava la pista in piedi e tornava a curri. Dove vedi? Capo quando mi fermavo qua, dalla cabina, stavo in un calcione. Pigliavo la palla, pigliavo un calcio e ribaltavo. Sì, i buchi di questo. Io non sono minore, si pongono a catturare. Quando sono mani sono più di grossi, tra i fianchi ti apri. Ma non faceva venire animali minori, maci, femmine. Venivano i culizzani, roba di 30 centimetri, lunghe, mezza punti, due metri fatti. Li cogliava la palla d'Italia a capo e non li faceva nulla, manco li intaccava. Ah, ma portami, non li faceva un baffo. No, li fanno dei zanni un po' forti, e via. Infizza un ghisci, sta praticamente una cinzia. E fatelo conto, a me compare, da un cane, mi l'ha da una parte all'altra, la maglia era tagliata a cucito. Il buco, anche ha ferito e Lucano gli è andato a casa, l'avessi girato e l'hai barrato. Ehi, più di uno ha di visto i gipi all'ospedale, e 30 al pronto soccorso ha del diritto, con lui gli occhi tutta la bicia, la goccia tutta la bicia, cioè ti vivi in campagna a fare i buchi. E mi hanno fatto i buchi, tu mi addrinchi, si divia l'occio e la goccia, e lui l'occio mi dava via benzoloni. E chi ci mi ha detto che il figliore è andato a pigliare la doppietta e l'ha fatto secco subito. A chi le sei dato nonostante le labbra in mangia, fa curarne il rosicchio, di Romagna, come ti le labbra. Le sei dato, ma come l'ha fatto in tempo il figliore a tirarne da 30, se no c'è Romagna a buco. Ma adesso sì, no, una cosa delicata che su. Che su bisogna proprio la palla, io, la palla. E devi pure centrale per ammazzarla, che si rovini, date la gamba. A parte che in campagna l'avremmo tirata a balla a una distanza di 3 metri, che andava a cialato dalla casetta, boom! E se sono incinato, la palla si è inconficcata al centro della testa, non l'ha neanche sfondato il cranio. Allora se mi trate correndo l'avevo picchito con un cucchietto manna, che tanto era tontonato. E allora l'avevo visto con un cucchietto, una volta che si è incinato con le zampe in terra, però non era morto, era vivo ancora. L'avevo girato di fianco, a chi era un bel mano, 3 quintali aveva bisogno. E l'avevo picchito con un cucchietto. La palla si è chicciata e non le ha sfondato il cranio, a te le immagini, ce l'aveva incrostata nella testa. Invece era dolce la mala sorte. Ma è pericoloso quando è possibile, pare sia molto, non è molto attontato, ma si può girare, si può pisare, si può pigliare a mozzicchiare a tappri, tanto da avere un po' minoriti se la soggia che fa. La battaglia non è fatta nulla che so, hai stata la soggia e portare un buco. No, a chi era già ti meglio, lo sappia già che ci dobbiamo imparare a fiscia. Era gli atti medi, allora io la tiravo, uno a cialarsi da dentro la casetta, chi lo sapia. Se ha cialato, chi l'ha giù la cialato, che sta dentro di bari. Come si è cialato, l'avevamo tirato. Era 3 metri di distanza, dal cancelletto a dentro il box, una distanza di 3 metri. E noi già era tutto, e allora siamo entrati veloce. A chi era molto proprio la palla conficcata era pronta e c'è nel fumo. cazzo, l'ha bucato. Adesso ce ne siamo fricati in alto. In alto l'avevamo punto. Così già è morto, è subito morto. Però era tuntunato, non era morto. Era il colpo, ma io si alzava poco a poco, soffiava pure. Perché anche un cazzo aveva portato a camminare. E anche non lo so. Ehi, già abbiamo fatto veloce, ma tu devi vedere che questa palla come ti era, sembrava che l'hai presa la palla, appoggiata era con un colpo di mazza sopra. E il cranio va via, un busso, un polso gli ha fatto, non l'ha fatto nulla. Che c'è di E anche non ha pigliato in un coso vitale. Dentro la valla me non ha combinato nulla di ammazzarlo. Ma che quello cuscito ho pure un colpo di mazza a capo e a Cifara, e commenti. Oh, una sabota l'ha giuliato un muzzo in via. Le zampe all'alta da reto. Ehi, a Zerri non bisogna correre di città a punire, era mia. Desi Bassone a Mantinetti. Oh, non bisogna correre di città, si ne è pisato, si ne ha bucato. Lo fino ferro da bocca. A Rotorenti si mi cucì, non faceva a finirlo. E che non si sia più. Allora a colpe di mazza, tanto era in terra, però si rotturava a buccino. L'avrà di cucù, quasi quanti dati in colpe di mazza, era sempre vivo. All'ultimo mi so che il traccato ha sbagliato un cannello, come si apre la bocca per lo qui, come si apre la bocca, mi sta entrato un cannello in bocca e l'ha giù grabato in 10 minuti. Per forse l'hai grabato, non lo ripirava più che dalle mani, non sia che si ripirava dal naso, oh. Sul calore era molto, alle fatte di arruzzo ai fendi, vivo e buono. Cazzo, c'erano pure la blocca a filmarsi, a cribare. E la prima baitava, di luce di sera, le burrillate all'inverso, alle colpi della massa. Tutto sanguinoli era. E poi la testa ce l'ho buttata però. E se no metti batti, non fatti a mantenirlo. No, don capo, che se ne fai don capo? Non si fa nulla don capo. A fare la favata, o poi i carri vola a fare la favata e a trovare un capo, Ehi, noi lo usavamo per la favata la stessa, lo tagliavo di tappeti, già il lavoro, i musichini, i barri, già il lavoro. Però pure questo, chissà a mezz'ora, va via il ferro ancora, come se ha girato un capo, l'ha fatto va alla buona anima a mezz'ora, 10 metri pure in aria l'ha fatto va, solo pure questo qui, l'ha cantata e l'ha alzata in alto. Non si non mai c'è fusta, maranno, c'è non è fusta gli altri animali, sono molto forti. Che se non è vero, trattarli poi tirare un barroccio. Ne abbiamo molto di fuoco in campagna. Da me l'attaccava la moto Zava, la moto coltivatore e mi drenava sotto la veranda. Chi va più, va via un riganzo, la piccava a Medivi, e giù se la battia a Rusango, e la pericoliava a me, tutto l'altro. Usciamo, gli parliamo di cose in campagna, purtroppo, anni passati. Anni passati proprio sopra, non tornano più, e non tornano più questi anni passati. Ma c'è bello pure là. Cioè, potremmo dire come ti viene che grazie a pochi tempo che siete male. Infatti era un amico mio quando veniva a spaziare massi dati, come se la prima rimaneva rubica di un cruzzo, sei magna di attennante, mica cazzucate a poche bocche, vai che io mi rimagno il cruzzo, non ne mangio il cruzzo, e se si rimaneva il cruzzo, che schifo. E poi un bel niente, Romagna crudo, quando va a ammazzare un buco. La prima cosa che fate, le calofiche, ve lo fate la fetta e si romagnano. oppure la gola o la Lecci, mamma mia, io coraggio. Ma i moglieri manco molto, non gli mozzava la gola subito, o la Lecci si mangiava, o la Lecci o la gola, sempre. Capita meno in bocca ancora, già è morente. No. Tutta la vera, ma così, oh. Il sanguinone fa la fara, fate schifo, fate. Io Franco si chiamava, un massaggio, che era amico mio. C'è per fare la macelleria della Grazia Deletta, su in alto, quasi alla fine via Grazia Deletta, sulla destra lì. C'è per fare la macelleria. Che io mangio, grazie, ma la notte è nata che non ci mangiare. Fica tu grugio, mica è buono, maglia di cazzo. Crudo, vai. E ancora sanguinoni, è tutto sanguinoni che fa. Non coraggio per me. E sto come puro. Paglia Dracula, tutto lo sangue in bocca, tutto farene, un vampiro Maria. Ogni adattore di vino. Cazzo e pucci. Se lo mangiava, pucci, che schifo. Aia, guarda vera, che l'abbiamo fatto. E ora di merendero e graziamo. E adesso chiudo io. Va bene, ciao, a domani. Ciao a chi è in ascolto. A domani, a Torello, tanto si è parato lo sugo. Ciao, Bacchi, a domani. Ciao, grazie, buona serata. Saluta la signora, se ti vediamo domani, se tutto coincide. Antonello, è il sugo, è diventato il color sugo e duro. Ci stai ascoltando, Antonello, ciao, ci sentiamo domani. Bye, bye. Ciao.